Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono le 11.06, finalmente siamo insieme, come ogni venerdì è qua in studio con me il dottor Franco Confalonieri, quindi oggi ci daremo da fare per mantenerci in forma, ma con grande relax, vero, dottor? Sì, assolutamente, buongiorno, ben ritrovati tutti. Noi vogliamo recuperare forma senza stress. Forse vogliamo recuperare forma, ma ci intriga anche l'idea di migliorare e di vincere, cominciamo in un modo e chissà come finiamo. E proprio questo è un po' il tema della nostra puntata, andiamo subito al sommario, ma prima Filippa Oreggi regge la parte tecnica, che ringraziamo, come sempre Laura Vanossi che è una garanzia in redazione, partiamo! Correre per vincere o correre per stare bene? Il piacere di socializzare è come un cioccolatino. Novità dal Congresso Mondiale di Nefrologia. Eh sì, oggi andiamo di corsa. Per fortuna però ho tanti ospiti e quindi potrò prendere il fiato. Abbiamo, oltre al nostro mitico dottor Franco Confalonieri, abbiamo in linea con noi Stefano Baldini. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. Campione olimpico, autore di questo libro che mi intriga molto, Maratona per tutti. Stefano, davvero per tutti? È davvero per tutti quelli che hanno già, insomma, un minimo di attività sportiva alle spalle e che possono farlo in modo continuativo. Stefano, io però sfodero anche il maratoneta di Radio 24, che è Giuseppe Cruciani, che è in linea con noi. Ciao Giuseppe. Ciao, ma maratoneta mi sembra una parola un po' grossa. Beh, no, davanti a Stefano. Vabbè, insomma, però io direi perché no? Ci sono, tu fai delle maratone, ti piazzi anche bene, per me sei il maratoneta di Radio 24, tutti ti seguiamo anche in questa sorta di secondo lavoro che ti tiene molto impegnato. Va bene, sì, facciamo così, davanti dai. A Stefano non posso chiamarmi maratoneta, però va bene, dai. Senti, Giuseppe, tu quanto ti alleni? 3-4 giorni a settimana, più o meno, secondo degli impegni. Un giorno sì e un giorno no, questa è un po' la E per la quanto regola. Tempo? Non so, dipende dal tipo di allenamenti, comunque un'ora e mezza, qualche volta due ore e mezza. Allora, Stefano sa bene che non c'è un orario, cioè non c'è un'ora fissa, dipende dal tipo di lavori che si fanno. Stefano, concordi? Voi che siete ad alto livello? Sì, concordo, naturalmente il programma e di allenamento di uno che ha anche in previsione di fare qualche gara è modulato in base al tipo di gara che stai preparando e quindi insomma non tutti i giorni sono uguali, certi giorni si corre più velocemente, certi giorni si recupera e si corre più lentamente, insomma cose così. Insomma, voi siete dei veri maratoneti, però si può anche correre solo per il piacere di correre, di mantenersi in forma, di scaricare un po' lo stress, e questo è un po' che vogliamo affrontare nel corso della trasmissione, capire perché avete deciso di correre e a che punto siete arrivati, dottor Confalonieri. Questo è un po' il sì, tema. Diciamo che tutti si comincia piano, magari soltanto per stare bene o già con l'idea un giorno di fare una maratona piuttosto che di correre per vincere. Oggi vorremmo proprio capire tra i nostri ascoltatori se è più numeroso e frequentato il partito di coloro che corrono soltanto per sentirsi meglio, per scaricare le tensioni, per liberare le endorfine, per recuperare il rapporto migliore con il proprio corpo, o se è più numeroso il partito di coloro che magari hanno cominciato così, ma che adesso corrono soprattutto per migliorarsi, per migliorare il proprio record sulla mezza maratona piuttosto che sulla maratona, o per vincere il confronto con il collega, l'amico o il compagno d'allenamento. Stefano, tu perché hai iniziato a correre, scusami? Ma perché i miei fratelli più grandi già facevano atletica, avevano iniziato con i campionati studenteschi e all'inizio però era soltanto insomma, un gioco, io vincevo le gare dei ragazzini senza allenarmi, ecco, e già da lì si intravedeva un certo talento e poi naturalmente la cosa è andata avanti insomma, fino a che non ho finito le scuole, è stata un'attività abbastanza tranquilla e non diciamo saltuaria perché comunque anche quando avevi 17-18 anni mi sono sempre allenato quasi tutti i giorni, però erano ritmi ridottissimi rispetto a quelli che ho ottenuto poi, ecco. Ma io sono diciamo un caso particolare, immagino che penso che la maggior parte delle persone che facciano movimento, che corrono, lo fanno senza gareggiare, e questo è assolutamente una scelta condivisibile. Poi c'è l'altra parte, insomma, il nostro istinto un po' agonistico, e quindi insomma qualcuno volentieri si cimenta in gare per misurarsi con altri, ma anche con se stessi soprattutto. Giuseppe, tu perché hai iniziato? Io un po' lo so, ma... No, io ho iniziato a pensare di fare una maratona nel momento in cui è nata mia figlia, perché forse stavo troppo in casa, volevo stare un po' all'aperto. Però l'atletica per me è sempre stata una passione. Io quando ero ragazzino giravo per l'Europa per vedere i campionati europei di atletica in pista, per vedere i campionati del mondo quando erano in Europa. È sempre stata una grande passione da spettatore, e poi cercavo sempre di mantenermi più o meno in forma correndo saltuariamente. Poi ho cercato di dare un po' di metodo a questa cosa da quel momento lì, dunque da 4-5 anni, e così ho trovato un gruppo di persone che corrono insieme a me, e questo è stato fondamentale. Stefano lo sa, nel nord soprattutto, ma in tutta Italia ci sono persone che corrono insieme nei vari club eccetera, e ho trovato delle persone completamente diverse rispetto, non so, ai tifosi di calcio, ecco, per dire. Gli appassionati di atletica sono proprio un mondo tutto particolare. Però la differenza fondamentale che volevo chiedere a Stefano: è così difficile non pensare? Io vorrei staccarmi dal non pensare alla prestazione, cioè non pensare a migliorarsi di un minuto, due minuti, e devo dire che andando avanti è sempre più difficile. Cioè tu fai una gara e non pensi solo a divertirti, ma pensi anche a migliorarti di uno o due minuti. Come si fa a staccarsi da questa, che può essere una cosa bella, però può essere anche un po' pericoloso, no? Pericoloso tra virgolette. Stefano, lo chiedi a me che compio la prossima settimana 38 anni e non riesco a smettere ancora. No, diciamo che quando sei molto legato alla prestazione, insomma, la cosa si fa anche un po' stressante, soprattutto quando la prestazione non viene. È chiaro che insomma il fisico non risponde sempre a comando, e ci sono delle risposte diverse in base, non so, alla stagione, al tuo stato di forma attuale, a quanto ti stai allenando, a quanto stai lavorando e così via. E io penso che quando smetterò di gareggiare, non smetterò completamente di fare movimento, perché non mi vedo anche fisicamente diverso da quello che sono oggi, però sinceramente non gareggerò più, nel senso che correrò soltanto per sentirmi bene, e magari finalmente guarderò un po' meno il cronometro rispetto a quello che faccio oggi. Questo è un po' l'errore che fanno tantissime persone che cominciano a fare movimento e magari scelgono la corsa perché è un qualcosa di molto pratico. Siamo troppo legati al cronometro, alla distanza che facciamo, e non ascoltiamo invece quelle che sono le nostre sensazioni, ci attacchiamo ad aggeggi come cardiofrequenzimetri e misuratori di distanze, invece di guardare dentro noi stessi. E la corsa è un qualcosa che ti dà questa possibilità di imparare tantissimo del tuo corpo e imparare a rispettarlo e gestirlo. Dottor Confalonieri, come si fa a non rimanere invischiati in questa ansia da prestazione? Io credo che sia quasi naturale non rimanere invischiati, cioè credo che Cruciani abbia toccato proprio un punto fondamentale. Io ho avuto esperienze di decine, se non centinaia, di persone che sono arrivate da me, hanno cominciato per stare un po' meglio, hanno cominciato con la scusa di dimagrire, di scaricarsi, e poi tutte si sono ritrovate a cercare la prestazione. Io credo che la ricerca del miglioramento personale, del successo, sia assolutamente naturale. Ovviamente va gestita, va indirizzata e va canalizzata, ma tutto sommato credo che sia quasi inevitabile cadere malati di questo tipo di desiderio. Sì, però lei come medico sportivo come aiuta le persone che si rivolgono da lei a non esagerare, a non rimanere dipendenti? Perché al di là di dire bisogna, non bisogna, però operativamente c'è qualche trucchetto? Ma credo che l'unico trucco reale sia porsi obiettivi ragionevoli, perché l'importante è raggiungere degli obiettivi. Quindi se noi iniziamo un percorso ponendoci ogni anno un obiettivo ragionevole, difficilmente la corsa ci farà male. L'anno dopo aggiorneremo questo tipo di obiettivo, però il conseguimento della prestazione, che può essere il miglioramento piuttosto che la vittoria, credo che sia assolutamente necessario. Quindi il trucco è proprio quello di stabilire con chiarezza qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Se volete parlarne con noi sportivi, anzi di corsa per vincere o di corsa per stare bene, 824 0024 in linea con noi due maratoneti, Stefano Baldini, Giuseppe Cruciani, è un medico sportivo che i maratonetti li guarda, li osserva, li segue, li prova, cura, ad aiutarli. Ecco, li aiuta, però di corsa, dottor Confalonieri? Poco, pochissima. Pochissima, quindi apriamo anche ai pigri. 824 0024. Una mela al giorno. Socievoli e quindi estroversi, affabili, amichevoli, pronti al contatto con l'altro, nasciamo o diventiamo? Al momento non abbiamo risposte, ma c'è un dato interessante che arriva da una ricerca dell'Università di Cambridge. I ricercatori, dopo aver opportunamente valutato con test particolari il livello di socievolezza di un campione di persone, 41 uomini per l'esattezza, hanno scoperto che i più estroversi avevano più tessuto cerebrale in un'area particolare del cervello, che è la stessa che si attiva quando si mangia cioccolato o durante l'attività sessuale. I ricercatori precisano che non sono in grado di capire se queste differenze a livello del cervello siano presenti sia dalla nascita o si sviluppano in seguito, attivate magari dalle esperienze personali, ma un dato è certo: essere estroversi ci gratifica. Commentiamo questa notizia con il dottor Luigi Ballerini, che è arrivato qua in studio con noi, psicanalista. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno, grazie. Allora, essere affabili, estroversi, amichevoli, a relazionarci bene con gli altri, insomma, alla fine ci guadagniamo. Sì, il bello di questa ricerca è che in fin dei conti viene fuori che c'è un piacere nell'essere socievoli. Quindi in qualche modo ci piace piacere. Questo è proprio il primo dato che poi fa parte dell'esperienza di ciascuno, no? Noi siamo contenti quando ci accorgiamo di piacere. E certo. E quindi in qualche modo essere socievoli ha a che fare con una gratificazione che l'altro ci restituisce. Non tutte le persone però riescono ad entrare in relazione con gli altri e a essere gratificate dalla risposta dell'altro. Forse sbagliamo qualcosa, siamo bloccati, pensiamo di fare brutta figura, di non entrare nella stessa dimensione. In questo caso come ci si può sbloccare? Ma proprio così, a volte non riusciamo a essere socievoli perché diciamolo così, abbiamo preso troppe porte in faccia, per cui esperienze negative magari con altri ci bloccano e ci hanno fatto chiudere. In fin dei conti diventare socievoli vuol dire recuperare un po' di fiducia nell'altro, per cui lasciamo aperto qualche spiraglio, diamo qualche possibilità all'altro e poi è un circolo virtuoso che noi instauriamo, perché più saremo socievoli, più gli altri staranno bene con noi, più noi avremo piacere a stare con loro, più ci trasmettono, insomma un circolo virtuoso che alla fine, se noi proviamo ad innescarlo con un po' di energia, magari un po' di volontà all'inizio, anche con qualche sforzo, poi i ritorni saranno davvero grandissimi. Un modo per essere socievoli, per iniziare il contatto con l'altro, è il sorriso. Un sorriso può in qualche modo aiutarci, secondo me aiuta sempre. Il sorriso aiuta sempre, anche perché il sorriso mette l'altro nella disposizione di accoglierci e quando noi ci accorgiamo che l'altro ci sta per accogliere è più facile che ci apriamo, per cui se sorridiamo l'altro è più facile che ci sorriderà. Va bene, grazie dottor Ballerini, alla prossima, buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Giuseppe, però si socializza anche correndo, quindi uno può rimanere anche un po' rude, avere anche un po' un caratteraccio, ma poi alla fine correndo si scioglie. Sì, però la corsa è anche solitudine, Quando fai 2-3 ore qualche volta ricade di farli da solo, e, insomma ci vuole anche una grande capacità di rimanere da soli. L'aspetto psicologico quando fai delle distanze molto lunghe è fondamentale. Volevo chiedere a Stefano, sei ancora con noi, sì. se si vede tra qualche anno a fare, forse però ha già risposto prima, a fare una maratona con tempi un po' più lunghi, diciamo da amatore, 3 ore, 3 ore e mezzo, perché tempo fa una sua intervista mi ha colpito molto quando diceva ci sono delle persone che mi chiedono di correre, magari di fare delle gare con loro in maniera più lenta, io però non sono in grado, non ce la farei a fare una maratona in 3-4 ore, è vero? ma in questo momento credo che sia una problematica soprattutto mentale, non avendo io mai corso per così tanto tempo. Io al massimo quando mi alleno, che non so, faccio la mia maratona in allenamento, la faccio in modo progressivo, invece che correre in 2 ore e 10 minuti la faccio in 2 ore e 30, ma più di 2 ore e 30 non l'ho mai corsa. Penso che sia molto difficile, più difficile, ecco, diciamo, rimanere sulle gambe e correre per 4 ore, ma è una cosa che inevitabilmente succederà, perché poi si fanno le scommesse con gli amici, quando compi 50 anni scommettiamo che non corri sotto le 3 ore e 30 la maratona, quelle cose lì, no? E allora quell'agonismo di cui parlava il dottore prima, che è insito dentro di noi, inevitabilmente viene fuori e succederà. Dottor Confalonieri, si inserisca in questa conversazione tra tecnici, come tra me, grandi atleti. Tra grandi atleti. quasi non riuscire, il problema del tempo, lo stiamo leggendo anche dai messaggi, è un problema molto sentito, e anche il problema di smettere, no, di essere legati al tempo. Abbiamo dato qualche consiglio, ma dove, quali sono i segnali che possono aiutare a capire chi sta correndo di esagerare? Beh, innanzitutto parliamo dei segnali del corpo. Sì, sì, perché... segnali del corpo che sono anche forse i più facili da interpretare. Innanzitutto, quello che è più classico, c'è un peggioramento delle proprie prestazioni. Cioè, se a fare gli stessi percorsi o le stesse tipologie di allenamento noi facciamo più fatica o impieghiamo più tempo o li viviamo con maggiore sofferenza, significa che qualcosa non funziona. Poi indubbiamente una diminuzione dell'appetito reale, importante e significativa, o un'alterazione del sonno piuttosto che del tono dell'umore, soprattutto una difficoltà ad addormentarsi piuttosto che un risveglio precoce, e infine un dimagramento soprattutto a carico del tessuto muscolare. Cioè, se ci accorgiamo che c'è una perdita di peso e siamo già probabilmente molto magri, così come gran parte dei maratoneti, e questa perdita di peso a carico del tessuto muscolare, è un altro segnale significativo. E infine una lentezza, un ritardo nell'adeguarsi della frequenza cardiaca ai nostri stimoli. Cioè, se noi siamo abituati a una risposta cardiaca pronta, immediata, sia in termini di aumento della frequenza sia in termini di diminuzione quando ci fermiamo, e questa risposta rallenta, significa che qualcosa comincia a non funzionare. Giuseppe, secondo te chi corre è preparato ad accorgersi di questi segnali? Cioè, c'è competenza, informazione, o si rischia anche un po' di correre tanto per correre? Tra le persone che io conosco, io per esempio faccio grande attenzione, cerco di fare grande attenzione, magari faccio un controllo in più all'anno al cuore, però certo anche per me il rischio di esagerare, io che sono un amatore come tanti altri, come migliaia di altri, e ce ne sono sempre di più in Italia, il problema adesso è proprio quello, Stefano lo sa benissimo, cioè la grande crescita che ha avuto la corsa negli ultimi anni è naturalmente positiva, perché moltissime persone si sono avvicinate a questo sport e non può che essere una cosa buona, non può che essere una cosa positiva in generale, perché è uno sport tendenzialmente sano, è uno degli sport direi quasi naturali per l'uomo, quello della corsa. Però ecco, il rischio è quello dei controlli, anche alcuni episodi recenti che sono accaduti purtroppo durante le gare dimostrano il fatto che ci vuole forse più attenzione al proprio corpo, perché l'ansia di fare la prestazione, di prendere qualche minuto, di scendere sotto i propri limiti sia sulla mezza che sulla maratona, rischia poi di non farti accorgere di quelli che sono i segnali che ti manda il tuo corpo. E non è facile per chi non è un esperto a raccogliere questi segnali al cuore o anche ai muscoli. Andiamo a Firenze, ci aspetta Enrico. Buongiorno Enrico. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione, sei bravissima. Grazie. Enrico, vuole fare una... Che cosa... Lei ci vuole raccontare o fare una domanda? Guardi, io lavoro 10-12 ore al giorno, sì, per cui torno la sera, sono stanco, però trovo 2-3 volte la settimana il tempo per fare mezz'ora, però io non sono bravo come i suoi ospiti, per l'amor di cielo, io ho 5-6 chilometri, dopodiché se ci metto di più non me ne importa niente, però ho trovato il giocamento per quanto riguarda la pressione, avevo la pressione non alta, diciamo un borderline, Avanti bene senza prendere nessun farmaco. Fede, Enrico, proprio quello che dicono i medici, che l'attività fisica aiuta a stare meglio, riduce anche i livelli della pressione. Enrico si fa, segue alla lettera quello che voi medici predicate. Che abbiamo predicate. Raccontato tante volte, ecco. Anche qua, sì. E soprattutto, così mi riaggancio anche a quanto raccontava prima Cruciani, c'è una buona integrazione tra quella che è la vita quotidiana e quello che è l'allenamento. Perché una cosa a cui bisogna stare molto attenti è che noi abbiamo un unico sistema di risposta allo stress. Dal punto di vista endocrino ormonale, noi rispondiamo a tutti i tipi di stress attraverso un unico sistema. Quindi l'allenamento va a introdursi, soprattutto perché è una vita particolarmente impegnativa, su quelli che sono gli stress legati all'attività lavorativa. Quindi ci vorrebbe anche la capacità di integrare e rendere sinergico l'allenamento con quelli che sono gli stress della vita quotidiana, per non rischiare di andare oltre, così come si diceva prima. Stefano, un consiglio per raggiungere questo da un maratoneta come te? Ma gradualità, come sempre, equilibrio, ecco, sono un po' le componenti che ci possono far trarre giovamento da un'attività sportiva, soprattutto questa che è individuale, non è un gioco. Voglio leggervi alcuni messaggi, alcuni li concentro in una domanda che secondo me è cruciale. Quanto tempo si occorre per recuperare a livello di muscoli una maratona? Perché molti scrivono: dopo sono a pezzi, non mi muovo più, ho sbagliato. Stefano. Ma è chiaro che è differente il discorso tra chi la prepara per arrivare nelle prime posizioni e invece diverso è per chi la vuole soltanto concludere. Normalmente chi vince una maratona è quello che fa meno fatica di tutti. E perché insomma è un piccolo Baldini, eh? È il più preparato e è quello che insomma 24 ore dopo è già a posto, naturalmente non pronto per correre un'altra maratona. Perché a quel livello insomma è anche una questione di se vuoi durare un po' devi avere i giusti tempi di recupero, anche si può correre una maratona ad alto livello ogni 4-6 mesi. È diverso il discorso per chi la corre per finirla, perché spesso e volentieri arrivi ad un certo punto della gara che entri nell'ignoto, nel senso che se sei uno che corre la maratona in 5 ore, raramente in allenamento hai fatto 5 ore e quindi insomma lì effettivamente c'è una problematica che colpisce l'apparato muscolo-scheletrico nei giorni successivi alla gara, ma non essendo un atleta di professione questo non risulta assolutamente un problema. Parliamo di corsa, abbiamo in linea Stefano Baldini e Giuseppe Cruciani. Sinora abbiamo parlato di corsa ad alto livello e tra poco Stefano e Giuseppe ci salutano, ma Giuseppe, volevo chiedere, anche per gratificare un po' la curiosità dei nostri ascoltatori, se segui una dieta particolare in funzione della maratona. Ma solamente un mese prima, sto un po' più attento. Però no, mangio normalmente, ma io in generale io non mangio cose molto pesanti, cerco sempre di mangiare delle cose, molti carboidrati, ma carboidrati digeribili e proteine naturalmente, ma pochi dolci, pochi grassi che fanno male, ma quello in generale cerco di seguire una dieta controllata, cerco, poi naturalmente ogni tanto gli eccessi ci stanno, però la dieta è fondamentale, il cibo sicuramente è fondamentale. Il cibo fondamentale anche per Stefano Baldini, immagino. Assolutamente sì, a periodi naturalmente, perché non si può vivere di 12 mesi all'anno. Senti, l'ultimo strappo controllo. Che hai fatto, Stefano? L'ultimo strappo sarà di ieri, non lo so. Ecco, e che cosa ti sei concesso? Ma diciamo che bevo sempre un bicchiere di vino a cena, ecco, che non credo che sia assolutamente un problema. E quindi un piccolo strappino, non è neanche uno strappo, dottor Confalonieri. Infatti per questo, infatti vincono, sono troppo perfetti. Un saluto a Giuseppe Cruciani, grazie a Stefano Baldini. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, e noi invece ci occupiamo di chi insomma non raggiunge i livelli di Stefano e di Giuseppe, ma che con la corsa ha a che fare, magari 3 volte alla settimana, vuole migliorarsi, ha qualche intoppo, oppure per chi la corsa la vede solamente come un piacevole passatempo, andare a correre, magari alla fine giornata. giornata con la fidanzata o con un amico può essere anche un'occasione, a proposito ne abbiamo parlato, socializzante. Andiamo nella provincia di Perugia, ci aspetta Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Massimo, lei è un maratoneta, pensando oppure del nostro partito, per stare bene? Correre per stare bene, questo sì. Okay. Diciamo che io ho iniziato perché avevo una, non c'entrava niente, infatti volevo fare una domanda al dottor Confalonieri, che avevo una dermatite seborroica che prendevo un sacco di creme. Sì. Dopo ho lasciato e mi sono messa a correre così. E diciamo che ho sotto controllo questa dermatite. Però quando sto bene mollo, cioè nel senso che posso stare 2 o 3 mesi a correre tranquillamente 3 volte a settimana, la mia oretta, insomma, ecco, sempre con gli orari, sono artigiano, insomma. Sì. E, però dopo mollo perché mi sento bene, sto bene e dopo riprendo. Magari passano altri 2 mesi e così, si va avanti. Insomma, così. È un prendi e molla. Dottor Confalonieri, però, e facciamo un po' tutti così. Della dermatite cosa succede quando molla? A seconda della stagione, se c'è il cambiamento di stagione ne risento tantissimo, che mi si appare sul petto, se posso dire queste cose, insomma. Ma certo che può dirle, Massimo. Ma nel senso, appare sul petto, sulla dottor testa, Confalonieri, lei pensa che ci sia una relazione tra attività fisica e la dermatite? Direi che questa telefonata è in linea con quanto si diceva prima, e cioè noi corriamo in funzione di un obiettivo. Nel caso del nostro ascoltatore l'obiettivo non è tanto prestativo, è un obiettivo di salute, un obiettivo di benessere, la riduzione della dermatite, nella quale c'è sicuramente una componente di squilibrio in senso generale che viene corretta dalla corsa. Quindi raggiunto l'obiettivo, il momento in cui sta bene, in cui, il momento in cui anche la sua pelle sta meglio, il nostro ascoltatore si ferma. Tutto sommato c'è una logica dietro, va bene così, potrebbe non fermarsi il momento in cui trova degli obiettivi diversi a integrazione di questo puramente legato alla patologia della sua cute. Non abbiamo avuto sinora messaggi da Andrea della Poltrona, che adesso possiamo dire Andrea della Canoa, forse perché proprio a lui la corsa non piace. Può darsi, può o si è dimenticato di noi? Magari per una volta. Vabbè, Luca da Udine, meno male che invece Luca è venuto a salutarci, 824 0024, benvenuto. Buongiorno, grazie. Avevo una domanda per gli atleti, ma mi pare che siano già andati via. Sono andati a correre, secondo me. Ecco, beati loro, beati loro. E niente, io volevo un attimo un aiuto da qualcuno, nel senso che... Beh, diciamo, però senta, noi l'abbiamo sempre il dottor Franco Confalonieri, non è un maratoneta, ma li allena, quindi io direi che possiamo fidarci. Siamo in una bottiglia. Dai, ok. Allora, io da meno di un anno che corro, diciamo, un paio di volte alla settimana, ho corso... Perché hai iniziato, Luca, scusi? Ma ho sempre fatto sport, però a livello di palestra, no? E poi per motivi, diciamo, familiari, la palestra non mi era più possibile praticarla. E ha detto, vabbè. Allora ho detto, ho un'ora e mezza, la ritaglio, vado a farmi una corsetta. Ho iniziato così, ho iniziato, insomma, un po' per diletto, un po' per soddisfazione. Alla fine ho corso una mezza maratona di Lisbona, bellissima. Però il problema è questo: mi piacerebbe correre una maratona intera, solo che mi rendo conto che al 21esimo chilometro il pensiero di doverne fare altri 21 non mi capacito sia mentalmente ma sia anche fisicamente. E ribadisco il concetto che sono neofita, per cui io corro, diciamo, quando posso, 10, 15, 18 chilometri a seduta. Ecco. Dottor Confalonieri, è un problema di allenamento o è un blocco mentale? Ma ci sono entrambe le cose, ma sono superabili. In quanto la corsa alla mezza maratona, come curiosità? Ma è in 2 ore. Quindi abbastanza adagio, abbastanza tranquillamente. Sì, no, abbastanza, anche perché era la primissima esperienza. Beh, dai, la prima esperienza è bravissimo. Medi, lunghi... No, è bravo perché è arrivato a correre la mezza. E allora diciamo che è più complicato dal nulla arrivare a correre una mezza che non dalla mezza arrivare a correre la maratona. Tutto sommato si può fare, è un obiettivo legittimo, bisogna darsi i giusti tempi. E il primo consiglio che gli darei: cominci durante il weekend, che magari ha un po' di tempo, a inserire dei lavori lunghi, magari non necessariamente di corsa, che sono più traumatici. Può anche cominciare a fare 3 ore, 3 ore e mezza di bicicletta durante il weekend, ma abituare l'organismo a uno sforzo prolungato. Poi sostituirà in parte la bicicletta con la corsa, fino a che si abituerà, durante il weekend in cui c'è più tempo, a fare un allenamento lungo, lasciando durante la settimana, continuando a fare quello che già sta facendo. Questo è il primo passo per arrivare nel giro, secondo me, di un anno a correre una maratona, ovviamente senza fare tempi straordinari, ma in modo assolutamente dignitoso. E la testa? La testa, nel momento in cui il corpo comincia a nel momento in cui è riuscito ad organizzarsi la vita e quindi l'allenamento in funzione dell'obiettivo, e in cui vede che il corpo man mano risponde, anche la testa lo va a seguire. Quindi il muscolo allenato parla al cervello e dice: perfetto, sono pronta. Questa è un'ottima definizione. Magnifico. Andiamo a Prato, ci aspetta Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro saluto Confalonieri, che diciamo ci siamo trovati a una gara un po' di anni fa. Com'è andato? No, no, aspetti Antonio, a che gara? Ma io facevo l'allenatore, no. La gara in cui ci siamo trovati è una 12 ore di corsa in Val d'Aosta, a Brusson. Io pratico l'ultramaratona da un po' di anni, ultramaratona con Falinelli, lo sa, sì. Sono le gare che vanno oltre la distanza dei 42 chilometri. Diciamo che l'aspetto mentale della sopportazione della fatica in gare lunghissime, tra l'altro prendo l'occasione per dire che domani mattina alle ore 12 parte una gara a cui sarà presente di 202 chilometri. 202 chilometri? In Romagna, la Nove Colli. Che ho già portato a termine per 7 volte. Quindi insomma lei è super bravo, Antonio. Sì, sono bravo, ma guardi, io mi ritengo diciamo una persona fisicamente come tantissime altre. Forse la cosa che io ho in più magari di un'altra è una predisposizione psicologica, forse, di affrontare la fatica in un certo modo che magari altri non riescano ad avere. Che cosa si dice, Antonio, tra sé e sé quando insomma deve recuperare tutte le forze, l'energia e la concentrazione per andare avanti? Perché immagino in 42 chilometri, non penso neanche ai 200, ma ci sarà un momento in cui lei dice: Antonio, non ce la faccio più, sono affaticato. Sì, no? Sono, e che cosa pensa? Chi pensa in quel momento? Ma sono moltissimi gli scalini da superare durante una gara di un giorno. Diciamo i pensieri sono moltissimi, quelli che ti passano per la testa, dalle cose di tutti i giorni, dal lavoro, diciamo dalla gara di per se stesso, dagli avversari, da quello magari uno può trovare anche nel paesaggio che mentre i chilometri passano uno si può gustare. Antonio, diciamo, è un insieme di cose. Antonio, allora in bocca al lupo per la gara di domani. La ringrazio. Grazie, ci aggiorni. Pino ci chiama da Bolzano. Buongiorno Pino. Sì, buongiorno, buongiorno. Ecco, io chiamo perché allora, io mi diletto dal 2002 oramai a correre almeno 2 volte a settimana, faccio i miei 12 chilometri. E ecco, da questo ne traggo molta soddisfazione e sto bene, ecco, tutto qui. La chiamata, sì. Io volevo chiedere agli atleti soltanto una cosa che mi capita ogni tanto, di tanto in tanto, che mi vengono dei dolori addominali durante la corsa. Volevo sapere, siccome so che è una cosa che capita ogni tanto a chi corre, sì. Mi interessava sapere come loro riuscivano a risolvere il problema. Allora, loro non lo sappiamo perché Stefano Baldini e Giuseppe Cruciani non sono più in linea con noi, ma sui dolori addominali abbiamo il dottor Confalonieri, che come medico sportivo sicuramente può dare delle indicazioni. Io vedo che no? Mi sembra un problema abbastanza diffuso. Sì, sì. Diciamo che è ovvio che poi ci possono essere situazioni diverse o particolari, però in linea di massima il dolore addominale è legato a un deficit di ossigenazione che comporta conseguente dolenzia e può essere corretto curando un po' meglio la respirazione durante la corsa, magari soltanto anche dedicandosi dei momenti o degli spazi durante la corsa in cui ci si concentra in modo particolare su una respirazione efficace. In questo modo credo che il problema si possa superare. Eccoci, abbiamo Fabio che ci aspetta da Salerno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo fare 2 domande, sarò veloce perché è l'occasione troppo ghiotta per non approfittarne. Vada. Allora, corro un poco disordinatamente, 1-2 volte a settimana col cardiofrequentimetro. È possibile abbassare la frequenza? Perché io dopo, in effetti come dato, faccio 7 minuti e mezzo a chilometro. È possibile abbassare la frequenza? Perché quando supero questa soglia salgo intorno ai 150-155 battiti al minuto. Ok, prima domanda, seconda Fabio? La seconda, vado a correre con mia moglie, quindi questo anche come consiglio di corsa è un ottimo, sì, come dire, solidificatrice di rapporto la corsa, perché così andiamo insieme. Le hanno riscontrato un'ernia cervicale, sì, con una risonanza, può continuare a correre? Grazie Fabio. Dottor Confalonieri. Dunque, rispetto alla prima domanda, la frequenza si alzerà meno o si alzerà più lentamente nel momento in cui il nostro amico sarà un po' più allenato. Diciamo che siamo agli inizi, è utile che lui continui a correre ad agio, magari prolunghi un pochettino la durata dell'allenamento o provi a correre invece che a 7.30 al chilometro, a 7.15 al chilometro per lo stesso tempo e vedrà che gradualmente la frequenza tenderà a salire meno. L'ernia cervicale non è una controindicazione assoluta alla corsa, se non sente dolore può correre, dovrebbe integrare la corsa con una ginnastica di stabilizzazione della parte alta della colonna da fare in modo continuativo. Allora, SMS, si può conciliare corsa e vene varicosa? Vene varicose? Sì, la corsa facilita la pompa muscolare, quindi il ritorno venoso, quindi è utile per chi soffre di vene varicose. Un SOS, dopo uno sforzo intenso durante la corsa mi formicola il braccio sinistro, è grave, ci scrive preoccupato un ascoltatore che non si firma. Potrebbe esserci un problema di contrattura muscolare che si riflette a livello della colonna piuttosto che a livello delle spalle e provoca questo dolore. Deve studiare la sua tecnica di corsa e correre possibilmente un pochino più sciolto. Le ginocchia ne risentono? Altro SMS? Beh, le ginocchia sono sovraccaricate durante la corsa, indubbiamente ne risentono in funzione del peso e del terreno delle scarpe scelte. Se non siamo in sovrappeso, abbiamo scarpe adeguate e variamo il terreno su cui ci alleniamo, ne risentono molto meno. Diego ci chiama da Vercelli, 824-0024. Diego, buongiorno. Buongiorno, vorrei fare una domanda, si tratta, sì, di questo. L'attività della corsa fatta in modo amatoriale come la faccio io ogni tanto può Ma ogni tanto la... quanto, Diego, scusi? Ma guardi, quando mi impegno un po', un paio di volte alla settimana, a volte tre, poi come capita spesso lascio perdere per un mesetto, poi riprendo, sì, e quindi sono un po' altalenante. E niente, il mio problema è poi quello del colesterolo. Sì. C'è un nesso tra fare attività tipo la corsa e abbassare il valore del colesterolo? E un'altra cosa è questa, ho anche spesso un po' di dolore alla schiena perché ho una protrusione sulla L5. E la corsa può peggiorare questa situazione? Dottor Confalonieri, colesterolo, cioè, sì, e corsa. Sì, c'è sicuramente un nesso ampiamente documentato. Se ci alleniamo soprattutto in modo continuativo con uno sport di resistenza come la corsa, abbassiamo il colesterolo e miglioriamo il rapporto tra colesterolo buono e colesterolo cattivo. In quanto tempo? Ma direi che i primi risultati si vedono già dopo 8-12 settimane e ovviamente sarebbe necessario fare la corsa almeno due volte alla settimana con continuità, non interrompere, e poi è chiaro che comunque siamo legati anche alle abitudini alimentari. La protrusione a livello L5-L6 è un fattore di rischio, bisognerebbe valutarne l'entità e anche qua, se si vuole continuare a correre, rafforzare la colonna per ridurre le problematiche legate a questa protrusione. Dottor Confalonieri, prima di chiudere ci colleghiamo con il congresso mondiale di nefrologia che si sta svolgendo proprio in queste ore a Milano. Per aggiornarci sulle novità, in linea con noi il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno, ci sono in Italia probabilmente 7 milioni di persone che hanno qualche forma di malattia del rene. Come per tutte le cose, essere uomini è un po' peggio, gli uomini sono quasi il doppio delle donne di chi è ammalato di rene. 500.000 di persone hanno una compromissione importante della funzione renale, 550.000 persone sono in dialisi, 50.000, e i pazienti che hanno avuto un trapianto sono 15.000. Ma professore, a fronte di questi dati una buona notizia, adesso abbiamo farmaci capaci di fermare la progressione delle malattie renali. Adesso abbiamo farmaci capaci di fermare la progressione delle malattie renali purché si arrivi in tempo. Una novità importante di questo congresso della Società Mondiale di Nefrologia è che adesso questi farmaci vengono usati dappertutto nei paesi dove la dialisi e il trapianto non sono disponibili, paesi emergenti, grande parte dell'Africa, l'America Latina, certe parti dell'Asia, dove chi si ammala di reni alla fine muore perché terapie che da noi sono disponibili lì non ci sono, costano troppo. La cosa più importante adesso è che sembra che abbiamo capito come funzionano forse questi farmaci e pare ci siano di mezzo le cellule staminali. Ricercatori anche italiani, tedeschi, ricercatori di Firenze, ricercatori del nord Italia, anche il nostro gruppo di ricerca ha trovato che ci sono nel rene cellule staminali che probabilmente sono lì per riparare il rene e si sta lavorando per capire se l'effetto favorevole di questi farmaci che hanno cambiato la storia della nefrologia degli ultimi anni è mediato dalla capacità di far lavorare meglio queste cellule staminali. Sono cellule nate per riparare il rene, si trovano lì ma certe volte esagerano, lavorano troppo e fanno dei danni. Ecco, abbiamo dei farmaci che sono capaci di utilizzare al meglio questa potenzialità delle cellule staminali. Forse un giorno il rene saremo capaci di farlo riparare con farmaci senza bisogno di ricorrere alla dialisi e al trapianto. Non so questo giorno quando sarà, francamente. Speriamo che questo giorno arrivi presto. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi. Dottor Confalonieri, noi ci sentiamo il prossimo venerdì, anzi ci vediamo. Appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo a mezzogiorno. Se volete scriverci, essere benessere @radio24.it. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Buona corsa!